Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. È un incubo per me perché è la peggior cosa che poteva succedere, però io vi posso giurare che qua si andrà in fondo. Stavolta io non ho fatto nessun errore. Io oggi non ci sarà nessuna scusa qua. Non mi devo scusare con il mio allenatore e con chi mi è stato vicino perché io non ho fatto nessun errore. Qua si andrà fino alla fine. Io, probabilmente qualcuno non vuole che io vada alle Olimpiadi, io. E allora oggi iniziamo così, sì, con lui. È uno dei protagonisti non politici del giorno, Alex Schwatzer. Vi ricordate ieri che avevamo detto la Gazzetta ha trovato positivo, lui nega tutto. Non mi vogliono mandare alle Olimpiadi. Complotto, complottone. No, complotto non lo dicono per la verità, però insomma. È positivo o no? Perché complottone. Devo salutare Piero da Brescia, così come saluto Remo, straordinario Remo. Buongiorno, ciao, ti arrivi alla Dig. Il nostro abbraccio, isoletta magnifica delle Seychelles che sono andato a toccare con mano lo scorso dicembre. Remo è venuto in Italia, mi è venuto a trovare a Milano. Ci siamo riabbracciati, straordinario. Lui è la zia Nico, la Nicoletta, come la chiamo io. La sua dolce metà. Vabbè, ci fa sapere che fa un gran caldo alla diga, ma è un monsone in arrivo. Capita, capita, Remo, fatti una pizza, va. Allora, sono le 6:32 minuti, questo è 24 mattino, è il grande giorno dell'Europa, è il grande giorno più lungo dell'Europa. Juncker ha detto: se state dentro, state dentro, se state fuori, capito? Grandi cittadini della Gran Bretagna che oggi votate se lasciare o no l'Unione Europea. Sì, non è proprio così, cioè non è, chiariamo una cosa, non è che se votano lasciare l'Unione Europea domani la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea. Ci sono i negoziati lunghi che poi i governi devono portare avanti, però insomma è la prima volta che uno Stato dell'Unione Europea vota se rimanere o oppure andarsene. E voi che fate, cari ascoltatori? Noi qua siamo tra le beghe italiane, la Raggi al primo giorno, subito gli aprono un fascicolo alla procura per le dichiarazioni dell'ASL di Civitavecchia, atto dovuto, anche perché c'è stata una denuncia, credo, di qualcuno vicino al Partito Democratico, non ci sono indagati, ma insomma, si comincia bene, si comincia bene. I'm gonna let it shine, this little light of mine. Qui invece, signori, c'è una signora la cui data io non mi sono segnato, tutte le volte gliela chiedo, è colpa mia, ma insomma è ormai vicina a sfornare, come si suol dire. Che cavolo sta facendo? Cosa stai ascoltando? Aurora, Aurorina Lussana, come stai? Bene, dai, Mila. Senti bene. La voce un po' strozzata di quella faticata perché c'ha il pancione. Come va? Come va il pancione? Sì, si soffre, ma va bene. Si soffre? Senti. Senti un po', ma non ce lo mandi una foto del pancione? Oh, signor, no. No, Ci ho provato così diretto. L'ultimo mese, poi, cos'è che hai detto? Sforno? No, sforno. Sgravo. Sgravare. Sì, no. Sforni, sgravi. Sgravi, forse ecco. Un po' più tecnico. Sforni, dai, va bene. Ma quando è che è l'ultimo mese? Anche sì, il termine dovrebbe essere cos'è? Fine luglio, è fine luglio, se non lo sai te. Poi deciderà la provvidenza, io vediamo. Cosa stai ascoltando? E fa bene alla bambina, un po' di inni, di marce, di musiche patriottiche britanniche. Musiche patriottiche britanniche? Britannia domina. Ah, la chiami Britannia alla fine, Britannia? No, io pensavo Europa. No, Britannia domina, un inno patriottico meraviglioso, Britannia. Che dice che i britannici non saranno mai schiavi. Britannia domina, eccolo lì, Aurora Lussana che si sente già britannica perché vorrebbe votare il Leave insieme a Maurizio Bianconi. Buongiorno al nostro onorevole. Buongiorno a voi. Lingua biforcuta. Lo posso dire solo io, Bianconi, lo sa che è il significato per me. Ecco, mettiamo l'inno della Gran Bretagna. Maurizio Bianconi, un altro grande nemico dell'Europa. Oggi in vostro onore mettiamo l'inno della Gran Bretagna. Ma no, ma quello io lo conoscono tutti, quelli. Vabbè, invece Britannia domina, cercami un po', no, Peter Biscapelli. Britannia domina è proprio quello di battaglia, su, non quello God Save the Queen. Sì, certo, questo è God Save quello the Queen. Quello lo mettono allo stadio quando giocano, calcio, quando si combatte. Com'è che è? Ma Britannia o com'è che è? Britannia Wales, ma come fai? Ma non è le marce, le musiche Britannia di Britannia Wales, niente. Scusa, non conosco. Bianconi, mai ascoltato Britannia Wave? Non... Bellissimo. No, Bianconi. No, sapevo di... Non sono un esperto di musica, tantomeno di cotesta musica. Di cotesta musica. Cotesta musica. Caro Bianconi, mentre noi apriamo il Parlamento, se fosse un cittadino della Gran Bretagna, una domanda veramente talmente scontata, Bianconi, che voterebbe? L'ho detto, io voterei Brexit, ma con tutte a sei mani. Mani, piedi, eccetera. Pensate che Bianconi, perché io lo seguo anche su Twitter, adesso magari negherà, ma a un certo punto ha messo un tweet, no, su quella fase drammatica quando c'è stata l'uccisione di Jo Cox, deputata, dicendo guarda, il tweet suonava più o meno così, guarda un po', a pochi giorni dal voto spunta il solito killer. Cioè che voleva dire? Che... Niente, che... Perché 15 anni ho scritto ora che è una cosa fortuita, e insomma sono sfortunati perché che capita un killer che ammazza una giovane deputata. Ma messa così sembra un po' quasi. Io quasi... gliela metto com'è. Com'è? Non è che gliela metto speciale, gliela metto com'è. Sì. Spunta il killer matto a sette spunta giorni. Killer spunta matto. Era questa spunta. Perché, e poi invece nel 2003. Quando c'era un altro referendum in Svezia, in cui la Svezia doveva decidere o no di entrare sull'euro, e come in Gran Bretagna i sostenitori della non entrata nell'euro erano in vantaggio, a tre giorni dal voto è spuntato un altro matto che ha ammazzato una ministra favorevole invece all'entrata. Fatti, e devo dire che i matti non hanno fantasia, si eccitano vicino al referendum. Vabbè, specialmente diciamo, se qualcuno volesse pensare male, ma noi non lo faremo, sta dicendo che qualcuno sta ipotizzando che qualcuno ha armato un matto. Questo non lo dirò mai. Mai. Io porto sempre i fatti. Mai, i fatti, cara Aurora, vedi, i fatti. Ma Aurora, ma perché? Ma non ti rendi conto che se esce dall'Unione Europea, che ne so, anche solo banalmente. Arriva la peste bubbonica. No, però non so, un domani tua figlia Britannia vorrà andare a studiare in Gran Bretagna e sarà tutto più complicato, ma la burocrazia. Ma cosa vuol dire? Così, loro dicono. Ce l'hanno con l'Europa delle burocrazie che non controlla l'immigrazione, che garantisce il welfare all'ultimo immigrato e casualmente all'ultimo britannico che magari vive in povertà, non c'è più una sterlina da spendere il welfare. Quindi chissà perché tutti i privilegiati, tutti i ricconi, tutti quelli delle frontiere aperte sono a favore del Remain. Tutti gli altri inglesi in difficoltà, gli ultimi dimenticati, quelli dimenticati da tutti, ecco, quelli sono per la Brexit. Però ti dico, che ne so, perderemo il commercio estero, esportazione. Ma perché per voi l'Inghilterra e l'Europa hanno la loro moneta da sempre, la sterlina. A livello internazionale, geopolitica, hanno sempre fatto quello che volevano, rapporti privilegiati con gli Stati Uniti, con i paesi arabi, in Africa fanno quello che vogliono. Ma allora, per me questa è soltanto una dimostrazione che un grande paese democratico, perché nessuno in Europa ha potuto esprimersi né sui trattati né sul rimanere uscire dall'Europa. Insomma, grande democrazia. Se non una monarchia, c'ha lì la regina, si chiamano sudditi, ma mi sembrano meno sudditi di tutti. Insomma, non sono Europa. Vabbè, ma adesso Bianconi, ma anche lei che sta in Parlamento. Quando gli europei hanno votato sulla Costituzione Europea, l'hanno bocciata, quindi tutti i referendum che abbiamo fatto sull'Europa sono andati male per i filo europeisti, e secondo me è da guardare questo modello inglese. Due anni fa hanno votato per la Scozia, per l'indipendenza. A guardare, viva la Gran Bretagna. Bianconi, ma anche lei che sta in Parlamento. Decideranno gli inglesi. Ma sì, decideranno. Anche lei non si preoccupa del nostro commercio, delle nostre aziende. Queste sono sciocchezze. Tirano fuori. Io ho studiato in Inghilterra quando non c'era. L'Unione Europea, mi hanno fatto studiare e ci sono andato. No, voglio dire, queste sono tutte sciocchezze. La verità è che l'Unione Europea, come l'avremmo voluta, è uscita, è un'unione economica a trazione germanica, e l'Inghilterra giustamente cerca di uscirne. Non solo, ma se ne esce l'Inghilterra, come ha detto lei giustamente prima, non è che domattina pigliano e escono, trovano un verso. Trovando un verso con le trattative possono dare la via agli altri per uscire da questo da questa Europa e da questo euro che, se lei stamani ha letto i giornali come me, Fazio dice che è un totale fallimento. È vero, Fazio. E dice che ci siamo impoveriti. Lui dice del 7%, per me è del 100%, mentre la Germania si è arricchita. Colpa di questi cattivoni. Ma che farebbe lei la Merkel? Adesso c'ha di fronte la Merkel in questo momento. Alle 6:40... Lei fa l'interesse dei tedeschi, siamo noi. Perché vede, per ogni marito che picchia una moglie, c'è sempre una moglie che si fa picchiare. E così noi, per ogni Merkel che piglia per le mele popolo, c'è sempre un popolo che ci si fa pigliare. Se noi non avessimo avuto il Napolitano, il Ciampi, Parodi, però che aveva detto con l'euro lavorerete un giorno di meno e guadagnerete come se avessi lavorato un giorno di più, e sempre di che parla, lo fanno parlare, invece di chiuderlo. Voglio dire, chiuderlo in che senso? Non fumai troppo. Chiuderlo in che senso? Dove dobbiamo chiuderlo, Prodi? No, a casa sua, no, a più di 70 anni, voglio dire, vada in pensione, dalle sciocchezze ha rivoltato il mondo. Lui è uno dei primi responsabili di questo disastro, insieme a Ciampi, insieme a Napolitano, capito Bianconi? Bianconi, abbiamo trovato. Ma Bianconi, guarda che è molto più anti-europeista di te, Aurora, non ti credo. Ma guarda che anche a breve da noi ci saranno dei referendum importanti, quello Lombardia e Veneto, lo so che non ne vuoi parlare. Per l'indipendenza, quelli farlocchi per l'indipendenza. Ieri leggevo sul Ma dai, sono su fatti ore, su carta velina. Non lo leggi mai, sulle 24 ore? Sì, a volte sì. Ieri titolava: entro il 2016 referendum autonomisti di Lombardia. Ma non valgono, ma non sono mica come quelli della Gran Bretagna, mica sono effettivi. Perché purtroppo non c'è vera democrazia. E allora, sono consultivi. Sì. consultivi, consultivi. Vediamo cosa succede, il residuo fiscale, intanto 18 miliardi di Veneto e 54 miliardi di Lombardia. Vediamo, Bianconi da Toscano ci dice qualcosa sul referendum. No, io voglio dire questo, che questi votano. Certo che invece vi... la Costituzione di Renzi, quella che ora dovremmo approvare, esclude espressamente... che il popolo possa esprimersi siamo, siamo il paese di Mario Monti che non vuole mica un altro arnese, a cui ancora attendo che venga fatto un processo per attentato all'integrità nazionale, è stato il primo quello che aveva detto bisogna comprimere i consumi perché gli italiani consumano troppo, si è messo la fame, lui sarà contento con questa amicizia finanziaria, noi ci siamo fatti da questa classe, da questa classe politica e dirigente che ha fatto i danni della grande. Vabbè, dai, meglio quella attuale, chissà, parliamo un po' di Italia. Intanto parliamo del grande trionfo della Lega. Grande trionfo alle amministrative della Lega. Secondo me per la disperazione ti nasce prima la figlia, cara Aurora. Grazie, Varese. A Varese, ma a Varese non c'è capoluogo. Capito, Bianconi, la Lega, che un tempo era la Lega Lombarda, non c'è un capoluogo della Lombardia dove governano. Beh, no, questa è incredibile. Però sono venuti a Cascina, la Lega in Toscana. Verso Varese è come se alla Mecca avessero vinti cattolici. Effettivamente una bella chiesona col campanile nel centro di La Mecca. Capisco lo sconforto. Però politicamente parlando, queste elezioni hanno insegnato che la Lega è una forza ragguardevole, ma è una forza che è destinata, lo dico, io non è che sono nemico della Lega, ma è destinata a una politica regionale, politica territoriale, non sponda al sud, ma perché uno dovrebbe votare a Benevento? Uno vota Mastella a Benevento, ma perché dovrebbe votare la Lega? Perché dovrebbe votare la Lega? Ne parliamo tra un attimo dell'Italia, la Lega, che abbiamo Aurora Lussana qui un po' affranta. Bossi rialza la testa, dice è colpa di Salvini dice sì, lui stava al 3%, volano stracci perfino a Cascina dove hanno vinto in Toscana. Adesso è partita su Facebook la campagna boicott Cascina da parte della sinistra. Vabbè, tra poco, Lombardo Salvini. Ragazzi, la rifaccio pure una volta. Non lo so, si mette la mano vicino alla bocca e si mette un suono, e il suono si chiama Pernani. Milan, mandami il traffico. Mandami il traffico, altrimenti a schifeo finisce. Partiti da rifondare. Partiti da affondare, ladri, ladri, ladri, ladri, ladri all'infinito. Mo sei un patek! Dopo aver sentito un pezzo di Martedì sulla 7, l'unica cosa che mi viene dire pubblico di merda, pubblico di merda! Che dobbiamo dire? Movimento 5 Stelle, babbarie. Alessandro Milan. Sono Nicola, la pescheria. Senta, io mi sono letto quella grande intervista, cazzulla intervista da lei, ma di pagine, bellissima. Ma tu sai, Rob, con i giornali ci incarto pesce, no? Tengo una pescheria. Ma mi è successo un fatto, appena ci messo le pagine intervista, coppo o pesce si è rianimato, si aiuta a iettammare, si aiuta a suicidare. Stata buona, Alessandro Milan. Non male questa, Bianconi, non so se l'ha capita. No, l'ho capita benissimo, bene. La pescheria voleva incartare l'intervista. A suicidare. Il pesce si è rianimato e si è andato a suicidare in mare. L'intervista di D'Alema, dopo l'intervista a D'Alema una pagina, oggi c'è sul Corriere un'intervista di una pagina a Casini. Signori, ma chi stiamo riesumando? Casini, D'Alema, vabbè, capito? D'Alema è cattivo come l'aceto, però D'Alema è un politico raffinato e di grande qualità. Non è un mostro di simpatia, le sue cazzate le ha fatte, ma insomma. Vabbè, bisogna portargli rispetto. Sì, non certo. È un certo amico mio, non lo saluto neanche, che non lo conosco, però Voglio dire, è uno cattivo che fa, come che l'aceto, fa, l'aceto, l'aceto. È come l'aceto. Sì. Come l'aceto. A me piace l'aceto, però. Sì. Anche a me. Esatto. A me, ma... però, infatti, però c'è chi non lo sopporta. Cioè, sì, come sì, dire. Poi, va bene. Vuoi mettere la sicumera di D'Alema con la bullaccine da bar forte di quell'altro? Stia tranquillo, che adesso è partita la fase B. Lo sente come è umile, l'umile Renzi. No, gli esce mica, no. Ci prova, ma dopo due minuti sdoga. Non ce la fa mica, spalla, no. È aspettiamo. Vero, la natura dell'uomo. Per ora sono tre giorni che è umile, tranquillo e sereno. No, ma no, prima no, volevo chiedere questo. Abbiamo sentito il gran pernacchione di Mastella a Salvini, eh? Continuano i pernacchioni di Mastella. Non male, Che c'hai, Aurora? Un ministro di giustizia. Sì, No, va bene. No, per adesso sabato... c'è la Leopolda leghista a Parma. Quindi, la Leopolda leghista a Parma. Sai che a giugno si faceva a Pontina di solito. Sì. Adesso a Pontina ci saranno il PD ormai. PD amministra tutti i capoluoghi lombardi, è vero? Sì. Lo dico con sofferenza, rischio di sgravare qual momento. Però a Pontina c'è sulla legge. Bianconi, rischiamo il parto in diretta. Sì, perché mi si alza la pressione. Aspetta. Faccio respiro, ma mi hanno insegnato anche la respirazione. Esatto, com'è la respirazione? C'è il PD che governa. C'è il PD che governa. Sabato c'è un bel incontro, c'è Ettore Gotti tedeschi, il giurista Giminello Alvi, Luciano Barracaracciolo, che è uno dei primi giuristi che ha detto la nostra Costituzione non è compatibile con la Costituzione europea, no? Proprio in tema di garanzie sociali. Vabbè, quindi un bel incontro. Beh, bel incontro, vi conterete. Ci va a Parma? Sì, è un tentativo di vedere cosa si fa. Tentativo di saltare sul carro? No, perché non ci sono simboli di partito, se no sarei mai andato. Il centrodestra, se vuoi rinascere, bisogna che tutti vi mettano le pantiere nell'armadio. Mi faccia un controllo però, Bianconi, quando sabato va a Parma, perché dicono tutti i giornali che adesso non metterà più le felpe. Basta ruspe. Salvini è il momento dell'umiltà, ragazzi. Renzi umile. Salvini umile. Io non penso che Salvini faccia questo per rivalutare la sua posizione di leader, perché ha capito che non così non funziona né lui né la Meloni né altri. Ripeto, mettere le bandiere negli armadi e i leader farli tornare a casa e cominciare a discutere, trovare 10 o 15 punti e rimettersi insieme, se no fra 5 stelle e PD. Ma io smetto perché ho un'età, ma quelli che danno l'età bisogna che tornino a lavorare, è un casino. Cioè perché i 5 stelle li vede un po'... No, io vedo che c'è ora è un bipolarismo momentaneo, in realtà si va verso un bipolarismo netto. Il centro-destra non riacquisisce. Ma visto che sta spesso a Roma, no? Non è che si è svegliato a Roma da tre giorni, non è che c'è un'aria nuova, no? No, ve l'ho anche scritto che per adesso l'aria nuova non c'è. Vabbè, ma sono passati tre giorni sono passati. No, perché all'inizio dice cambia tutto. Ma sono tre giorni. Il primo atto della Raggi va al Giubileo, come se fosse un democristiano con moccia al naso, un di questi comunisti. Ma secondo lei glielo dice al Papa, l'IMU lo dovete pagare? Perché questo no, appunto, voglio dire, dalla fase e poi va al Giubileo. Allora diciamo che il rinnovamento incomincia dal secondo atto. Perché il secondo atto. Vabbè, poi, ma il primo istituzionale. Perché c'è cambiamento, gli hanno affibbiato subito una visione di garanzia. Quindi per dire, no, per la verità, non è indagata. No, ma poverina, ma questa è proprio una puttanata che gli hanno fatto. Ma sì, questa sì. E poi una cattiveria che non è da Giacchetti. Ma infatti l'ha fatto, credo, un funzionario, un'associazione che è riferita a un funzionario del PD. Però attenzione, è il momento, manca un mese. Allora, qui in diretta sappiamo che ci sarà il parto in diretta. Ci sono i nomi, il Toto Nomi, senti Aurora, arrivano ancora. Come decideremo di chiamare, se non Bretagna, se non Europa? Potresti chiamarlo Unione Europea, proprio per farlo. Se no, senti qua i nostri ascoltatori. Senti. Buongiorno da Antonio da Latina. Ma come lo vedete il nome Alice? Un nome che richiama appena appena la cristianità. Anna Maria.